Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Non è più chiaro se vi siano ancora donne, se ve ne saranno sempre, se bisogna augurarselo o no, che posto occupano nel mondo, che posto dovrebbero occuparvi. Non è detto che ogni essere umano di genere femminile sia una donna. Bisogna che partecipi di quell'essenza velata dal mistero e dal dubbio che è la femminilità. Ma che cos'è la femminilità? Basta una sottana per farla scendere in terra. Benché certe donne si sforzino con zelo di incarnarla, essa viene descritta volentieri in termini vaghi e abbaglianti. Se oggi la femminilità è scomparsa, è perché non è mai esistita. Il fatto è che ogni essere umano concreto ha sempre la sua particolare situazione. Queste parole e molto altro ha scritto a proposito delle donne Simone de Beauvoir, geniale e controversa compagna di vita di Sartre, nel suo Il secondo sesso, datato 1949. Lei era una femminista provocatoria e intellettuale che non ha mai disdegnato la promiscuità, diventando un'icona di indipendenza che rispetto ad alcuni modelli contemporanei risulta quantomeno in controtendenza. Ma non è la sola. Da Maria Maddalena a Jennifer Lopez, da Frida Kahlo a Madre Teresa, da Bette Davis a Margherita Hack, sono molte le donne umane e magnificamente imperfette che hanno avuto qualcosa da dire. In principio era Greta Garbo, la divina, ma la meno diva di tutte. Non sopportava lo star system, le interviste e la vita mondana. E anche da questa riservatezza forse è nata la leggenda. Tutto il contrario di Marilyn, la bionda svampita che diventò il sogno proibito d'America, ma non fece mai pace con se stessa. E mentre Hillary Clinton, futura First Lady e segretario di Stato, si faceva le ossa lavorando come volontaria per il candidato repubblicano Barry Goldwater nella campagna presidenziale del 1964, Audrey Hepburn, che aveva conosciuto la povertà e non se lo era mai dimenticata, diventava la leggera e spigliata Eliza Doolittle di My Fair Lady. Come avete potuto imparare le buone maniere in casa di mio figlio? È stato molto difficile. Se ho imparato come si comportano le vere signore, è stato solo grazie al colonnello Pickering. Lui mi ha sempre trattato come se fossi qualcosa di più di una povera fioraia ignorante. Vedete, signora Higgins, a parte le cose che si possono imparare, la differenza fra una dama e una fioraia non sta tanto nel come si comporta, ma nel come viene trattata. Quando Sonia Gandhi dalla periferia di Torino si trasferiva in India, imparava l'hindi e diventava presidente del partito del congresso, Cher, l'unica che può vantare almeno una canzone al primo posto della top ten in 6 decadi, muoveva i primi decisi passi verso il successo. Oggi, 2 nuove principesse si affacciano sulla scena internazionale, Kate Middleton in Inghilterra e Charlene Whitstock a Monaco. Ma chissà se riusciranno mai a farsi amare come Lady Diana e Grace Kelly. Di matrimoni ne sapeva qualcosa la povera Liz Taylor, che con i suoi occhi viola ha girato film e sedotto uomini, ma non ha mai raggiunto la felicità. Cosa che invece ha tutto sommato fatto Jane Fonda, barcamenandosi tra impegno civile, corsi di fitness e qualche bevuta di troppo. Che nessuno è perfetto non è certo un mistero, ma in un periodo in cui l'immagine è tutto, Barbara Streisand, con il suo naso ingombrante, ha dimostrato che il talento non si misura allo specchio. Canzone dopo canzone, film dopo film, è arrivata nel 1991 con Il Principe delle Maree a essere contemporaneamente attrice, produttrice e regista. Lo sapevamo che questo giorno sarebbe venuto, no? Ma non si è mai abbastanza preparati, vero? Mi sembra di morire. Una delle cose che amo di te è che tu sei il tipo di uomo che tornerà sempre alla sua famiglia. Devo trovare un bravo ragazzo ebreo, voi mi state uccidendo. For all we know. Say goodnight. hold out my hand and my heart. My heart will be in it. Che le donne siano esseri straordinariamente complicati, lo dice la retorica, lo dicono i settimanali femminili e lo dicono gli uomini. Eppure gli stereotipi sembrano avere le idee ben chiare. Se una ragazza è affascinante, non sarà mai di grande talento e viceversa. C'è stato di mezzo il femminismo, battaglie vinte, battaglie perse, stravolgimento dei ruoli, ma alcuni pregiudizi sembrano non morire mai. Lo sa bene la nostra prima protagonista di oggi, bionda, bellissima, 20 anni vissuti da sex symbol tra scandali e trasgressione, e una trentina trascorsi ad abbattere quell'immagine che le si era appiccicata addosso e aveva cominciato a pesare come un macigno. La dea di cui aveva bisogno un'epoca priva di dei, l'aveva definita Jean Cocteau. Come per ogni mito, bastano due lettere a identificarla. Tutti la chiamano BB, ma il suo nome è Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Se un uomo cambia spesso donne, viene definito Don Giovanni, è stimato ed invidiato. Se una donna cambia spesso uomini, viene bollata come una puttana. È una discriminazione insopportabile. Io non sono una femminista, sono semplicemente una donna libera. Nel 1934 la Francia sta vivendo la sua terza repubblica, lontana dall'allegria e dalla spensieratezza della Belle Époque, il suo momento d'oro. Ma mentre Hitler è già diventato il Führer e l'Europa lentamente si prepara alla devastante guerra, Parigi resta la città più romantica e favolosa del mondo. Brigitte Bardot viene alla luce qui, nel tepore di un 28 settembre soleggiato, in una famiglia dell'alta borghesia conservatrice e cattolica che abita in Avenue de la Bourdonnais, 7° arrondissement, a 2 passi dalla Tour Eiffel. Sua madre Anne-Marie e suo padre Louis hanno 16 anni di differenza e sono il prototipo di tutto ciò al quale Bri-Bri, così la chiamavano, si sarebbe ribellata. Mia madre e mio padre erano i classici risparmiatori borghesi. Mai una trasgressione, mai qualcosa che uscisse dai piani prestabiliti. Papà andava in ufficio ogni mattina alle 6 in punto, non ha mai sgarrato. Gli volevo molto bene, ma aveva 2 lati della personalità contrapposti. Era illuminato e aperto qualche volta, e la maggior parte del tempo severo e repressivo. Entrambi però hanno una predisposizione artistica che indubbiamente trasmettono alla figlia. Mentre la mamma ha studiato danza e teatro a Milano quando era una ragazzina, papà scrive poesie e ogni tanto qualche piccolo editore ne pubblica addirittura qualcuna. Quando i tedeschi occupano Parigi, l'unico passatempo è la musica. Louis fa partire il grammofono e si tenta, cantando tutti insieme, di non pensare all'orrore del mondo. Brigitte è una bambina generosa e sensibile, tanto che quando la sua amichetta Chantal perde il papà in guerra, le fa una proposta tanto tenera quanto strampalata. Me lo ricordo ancora come se fosse ieri. Avevamo 6 o 7 anni e il papà di Chantal era stato ucciso, mentre mio padre una volta era stato colpito ma si era salvato. Così ho offerto a Chantal metà del mio papà. Potevamo dividercelo. Poteva diventare un po' mio e un po' suo. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a Parigi, dove nel 1934, a 2 passi dalla Tour Eiffel, è venuta alla luce la piccola Brigitte Bardot, figlia di genitori altoborghesi, conservatori e cattolici. La famiglia Bardot cambia casa. Si trasferisce in un quartiere più periferico, ma che Brigitte, controcorrente di natura, preferisce. Studia un po' a scuola e un po' a casa, ma soprattutto le piace 3 volte alla settimana andare a lezione di danza. All'inizio è un maestro dell'opera che va da lei. Poi, quando diventa più grande, è lei che va in Rue Spontini da sola, con una fetta di torta al cioccolato nello zainetto da mangiare dopo l'allenamento alla sbarra e prima del catechismo, al quale la mamma tiene moltissimo. Non è l'unica cosa su cui la volontà di Anne-Marie è insindacabile, perché le è venuta una grave forma di ipocondria che la spinge a voler tenere tutto sotto controllo. Mentre gli armadi e i cassetti sono tutti chiusi a chiave e le porte e le finestre impossibili da aprire per via di un lucchetto, Bri-Bri deve parlare in un certo modo e stare attenta a come si veste. Passa giornate intere a lavare mobili, abiti e capelli nella speranza di eliminare germi e batteri che per sua madre sono diventati una vera e propria ossessione. Inoltre, non ha praticamente amici perché nessuno in casa Bardot viene accolto a braccia aperte. E questo spiega probabilmente la sua tendenza da grande ad avere delle amicizie lunghissime e importanti, sia con uomini che con donne, e la sua voglia di avere sempre intorno persone con cui chiacchierare, ridere e star bene. Dire che la mia vita era una prigione di certo è esagerato. Tutto sommato ho avuto un'infanzia tranquilla. Però ero molto inibita, parlavo poco, non mi sentivo mai adeguata. Gli psicologi dicono che le persone come me hanno bisogno d'affetto, ma nessuno psicologo mi ha mai detto perché io sono una di quelle. Brigitte sviluppa quell'egocentrismo tipico di chi, facendo della psicologia spicciola, nasconde una profonda insicurezza. Capricciosa, sempre scontenta, impara a trattare male tutti e continuerà a farlo anche da famosa, con fotoreporter, cronisti, agenti, portieri d'albergo. Una volta, prima dell'inizio delle riprese, arriverà a schiaffeggiare il regista Clouseau, colpevole di aver preteso da lei più professionalità. Esigente ma coerente con se stessa, il suo corpo e il suo spirito sono di quelli che si fa fatica a reprimere, e quando questo viene fatto, reagiscono. Brigitte inizia a soffrire di una brutta asma, proprio la cosa che è impossibile da tenere sotto controllo, le suggerisce il destino, che sa essere simbolico. E così i suoi nonni la portano per un po' a vivere con loro in campagna, alle porte di Parigi. Sono giorni bellissimi, tra cani, gatti e molti altri animali per i quali Brigitte, futura paladina dei loro diritti, già prova un amore sconfinato. Passa anche l'asma e si torna, in senso letterale e metaforico, a respirare. Non più letti rifatti alla perfezione, non più armadi con i vestiti divisi da cellofan, non più asciugamani del bagno allineati in modo maniacale e barattoli impilati uno sopra l'altro senza il minimo margine di errore. Brigitte, in campagna, rinasce. Ha trovato nella pace della casa dei nonni la sua dimensione, finché non arriva il momento di ritornare in città. Ricordo un episodio legato alla mia infanzia parigina che fu terribile. Eravamo io e mia sorella. Giocavamo agli indiani e ci siamo nascoste sotto un tavolo fingendo che fosse una tenda. Ma sopra la tovaglia c'era un vaso e tirandola per sbaglio il vaso si è rotto. È arrivato papà ed ha iniziato a picchiarci mentre la mamma urlava che quella era casa sua, non casa nostra, e se lo avessimo fatto un'altra volta ci avrebbe sbattuto per strada perché noi non meritavamo di stare lì e che per lei diventavamo estranee e dovevamo darle del lei. Fu orribile. Fu il preciso momento in cui io, anche se ero piccola, cominciai ad allontanarmi dai miei genitori. È il punto di non ritorno nella vita di Brigitte Bardot. Solo nel 1975, al funerale di suo padre, sua madre le proporrà di ricominciare a darle del tu. C'est le retour des saisons, la joie dans la maison, c'est la vie qui recommence. Le printemps et l'été, l'automne ou bien l'hiver, ne reviennent que pour trouver comment tourne la terre. C'est le retour de la pluie, du feu de bois dans la nuit, c'est l'automne qui frissonne. Un bon livre, du vin chaud et la tiédeur du lit, c'est l'automne chérie, la saison de la vie. C'est le retour de l'hiver, tiens, le ciel s'est couvert et la neige qui recommence. Chante Noël dans mon cœur, chante le divin enfant, Noël des jours meilleurs, enfant de ma petite enfance. C'est le retour des cadeaux, les vitrines s'allument tôt, et pour ceux qui ont de la chance, il y a les soirées en frac, moi je patine sur le lac, c'est l'hiver chérie. La saison de la vie. La vita di Brigitte a Parigi procede nella routine, tra lo studio e la danza, con qualche spiacevole episodio in casa che si accumula alla sua già profonda fragilità. Come quando un giorno, dal nulla, suo padre le annuncia che Babbo Natale non esiste. Un trauma per qualsiasi bambino. Figuriamoci per lei, che considera la magia dei doni il momento più bello dell'anno, visto che il giorno del suo compleanno, a fine settembre, tutti le regalano penne, quaderni e occorrente per la scuola. Intanto cresce e si guarda allo specchio con orrore, come tutti gli adolescenti del mondo. Per lo stress e l'ansia costante le vengono spesso eczemi e la sua pelle non è certo ancora di seta come tutti la ricordano. Per farla breve, sembra assurdo, ma Brigitte Bardot si sente quel che si dice un brutto anatroccolo. Non mi piacevo. Mi vergognavo anche a uscire di casa. Mi sentivo terribilmente a disagio e cercavo di coprirmi come potevo, per esempio mettendo grossi maglioni. Avevo dei complessi anche per il seno, che lentamente stava crescendo. Diventava sempre più grande, il mio corpo cambiava e io lo trovavo orribile. La guerra è finita da qualche anno e la Francia, come tutto il mondo, prova a rinascere. Perfino una donna conservatrice, come Anne-Marie Bardot, sente l'esigenza di provare a lanciarsi in un'attività, di assecondare la tendenza dell'ottimismo. Già aveva cominciato a cucire cappelli e adesso, influenzata dal new look di Christian Dior, decide di aprire una boutique tutta sua per venderli, in Rue de la Pompe. Inaspettatamente illuminata in fatto di marketing, pensa poi a una strategia per attirare i clienti: organizzare un balletto con sua figlia Brigitte e le sue compagne di danza. Per le ragazze è un'occasione unica, più scuse per provare e quindi stare in giro, e la possibilità di esibirsi, per quanto non su un grande palcoscenico. Brigitte è molto brava e il suo corpo, che l'accompagnerà negli anni a venire, è sempre più sinuoso. All'inizio si sorprende della richiesta di sua madre, ma in fondo è abituata al suo atteggiamento ambivalente e totalmente umorale, che alterna momenti di disperata maniacalità con una serenità tutto sommato leggera. Quando inizia lo spettacolo, in un attimo si raduna una folla di curiosi, uomini, donne, bambini, tutti fermi ad applaudire i movimenti sottili delle ballerine. Poi arriva un cugino di papà con un suo amico. Entrambi lavorano per Jardin de Mode. Sono venuti per recensire il negozio, ma notano la bellezza ingenua di Brigitte. Mi hanno proposto di posare per la rivista e io non ci credevo. Non capivo cosa potesse piacergli di me. Naturalmente lì vicino c'era anche la mamma, e un po' perché uno era il cugino di papà, un po' perché non poteva fare una brutta figura alla sua inaugurazione, ha detto che potevo farlo. Ma Brigitte è troppo bella perché non si sparga la voce. Dopo aver visto le sue foto su Jardin de Mode, la chiamano da Elle, che in quel momento è la più prestigiosa rivista di moda. Per la mamma, che di certo non pensava sarebbe successo, da subito è un no senza possibilità di replica. Però Brigitte è testarda. Prima con le buone, poi con le cattive, parlando e sbraitando, coccolandola e piangendo disperata, ottiene quello che vuole, pur se con un compromesso. Poserà per Elle. Ma per scongiurare lo scandalo, la grande paura di Anne-Marie, non metterà il suo nome intero, ma soltanto le iniziali. Sta nascendo BB. Per ora si accontenta di posare in qualche servizio di moda, non per vanità, ma perché le serve una conferma, le serve sapere che può piacere e cominciare a guardare il mondo a testa alta, senza contare naturalmente che è un modo per ribellarsi alla rigidità di sua madre e per dimostrare che può vincere la sfida nell'estenuante affermazione della sua libertà. È il 2 maggio 1949, quando Elle esce con le foto di Bibi. La rivista entra in moltissime case e luoghi pubblici, e sono tanti quelli che rimangono a bocca aperta di fronte alla ragazza in versione scolaretta. Ha solo 15 anni, ma è di una bellezza prorompente che si intuisce getterà scompiglio tra gli uomini. Soprattutto, ne farà capitolare uno. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1949 e a Parigi è un maggio tiepido quando la giovanissima Brigitte Bardot posa per la prima volta da modella entrando nelle case dei francesi attraverso la rivista Elle. Ha soltanto 15 anni, ma il suo corpo e il suo viso ne dimostrano molti di più, sebbene lei, con tutte le sue insicurezze dovute soprattutto a una madre problematica, non ne sia ancora consapevole. Lei no, ma c'è chi già capisce che per quella ragazzina il destino ha in serbo grandi cose. La casa del regista Marc Allegret è una disordinata cozzaglia di mobili che, tra libri sparsi ovunque e vecchie locandine appese al muro, danno vita a un'atmosfera bohémien tipica del gusto intellettuale francese. Non si sa come, finisce sul suo tavolo anche il numero di Elle, la sacra Bibbia dell'eleganza parigina, e Allegret, in cerca di volti nuovi, decide di sfogliarlo. Quando arriva alla fotografia di Bibi, decide di farsi un caffè. Si alza e lascia il giornale aperto. In quel momento passa il suo assistente. Il suo sguardo cade sull'immagine e ne resta folgorato. Immediatamente il ragazzo dice ad Allegré che vuole a tutti i costi trovare quella ragazza dal fascino, allo stesso tempo innocente e perverso. Allegré si fida e lo lascia fare. È un giovane scapestrato, ma molto sveglio, giornalista del Paris Match, dal nome ancora più assurdo del suo abbigliamento. Si chiama Vladimir Plemiannikov, ma per tutti è Roger Vadim. Roger Vadim. Ero magro, taciturno. Non avrei mai messo la cravatta, neanche se mi avessero dato dei soldi. Sembravo uscito da un romanzo di Dostoevsky. Ero esattamente quello che nessun genitore avrebbe desiderato per sua figlia. Bisogna avere un nome francese per venire iscritti all'anagrafe, prevede la legge del 1928, quando Vladimir nasce e diventa per forza di cose Roger. Suo padre Igor è emigrato dalla Russia verso ovest, come molti connazionali aristocratici, durante la rivoluzione bolscevica, dalla quale voleva scappare. Arrivato a Parigi, aveva conosciuto una bella ragazza, Marie Antoinette, l'aveva sposata e aveva iniziato a lavorare come diplomatico. Ma quando Igor ha solo 34 anni, la disgrazia colpisce la famiglia. Un attacco cardiaco lascia il piccolo Vadim orfano di padre a soli 8 anni. La vita a volte ti fa crescere in fretta, è il destino che preme l'acceleratore. Roger va in giro da solo, va a scuola, incontra persone più grandi di lui e impara dai libri quello che non impara nella strada. Una combinazione, la teoria e la pratica, che lo fa diventare uomo prima degli altri. Tanto che quando sua madre si risposa e lui è soltanto un ragazzino, ha già le idee chiare su quello che vuole. Ho pensato che fosse giusto per mia madre trovare un uomo che si occupasse di lei, e questo naturalmente mi toglieva anche un po' di responsabilità, perché in fondo, anche se ero sveglio, ero soltanto un ragazzino. Io credo di essere già stato abbastanza bravo a badare a me. Roger Vadim ha ragione, la sua precocità non lascia dubbi sul suo talento. Inizia a scrivere, prima con qualche piccolo tentativo che straccia o rimane nel cassetto, poi, poco a poco, prendendo abbastanza sicurezza per far leggere le sue cose agli altri. Il coraggio non gli manca e, nonostante la sua timidezza, riesce a bussare a diverse porte per cercare di guadagnare qualcosa da giornalista. Un articolo qua e là, qualche breve sceneggiatura che non ha fortuna. Vadim è quello che si dice un autore in cerca di personaggi. Mentre aspetta di trovarli, vive con gli amici il momento più eccitante del quartiere latino. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. A Parigi il fermento si è spostato di quartiere in quartiere. Negli anni 20 il centro di tutto è Montmartre, con la sua piazzetta piena di pittori che passano le giornate a dipingere case, lampioni, paesaggi e persone. Negli anni 30, in piena Belle Époque, ci si diverte a Montparnasse, meno romantico ma più spensierato. Sempre nella Rive Gauche, tradizionalmente bohemienne e artistica, ma stavolta nel quartiere latino e a Saint-Germain-des-Prés, tutti gli intellettuali si incontrano dalla fine degli anni 40, dopo la liberazione. Roger Vadim, che con i pochi soldi che guadagna da giornalista riesce a malapena a pagarsi un affitto in condivisione con degli amici, si unisce al folto gruppo di musicisti, scrittori, filosofi e artisti che vivono alla giornata tra un dibattito sul cinema e una bevuta di whisky nei jazz club più alla moda, come il Tabù, dove è solito esibirsi Boris Vian, con quei pezzi irriverenti che hanno convinto anche Serge Gainsbourg a cominciare a cantare. È stato un periodo davvero magico. Io, che non avevo mai avuto una famiglia, adesso, tra tutte le persone interessanti con cui parlare di qualsiasi cosa, finalmente non mi sentivo più solo. Nessuno di noi si preoccupava del futuro, semplicemente era tutto bello così com'era. Anche se i francesi non amano in assoluto il gusto americano, accolgono a braccia aperte le novità culturali che arrivano da oltreoceano. E se nei discorsi quotidiani ai tavolini dei bar davanti al mercato dei fiori i più citati sono sempre Nietzsche e Baudelaire, la sera si sta tutti in silenzio ad ascoltare gli intensi motivi di Charlie Parker. Vadim partecipa alle conversazioni e ha sempre qualcosa da dire. Spesso la sua opinione è controcorrente, di certo non snob come sono a volte le risposte esistenzialiste, perché lui, prima di tutto, è un ragazzo che si è fatto da solo, che ha imparato sulla sua pelle cosa vuol dire vivere. Sente adesso che vuole fare il regista. Avverte l'urgenza di raccontare storie non più soltanto sulla carta, ma anche con le immagini. Ed è per questo che quando, attraverso il contatto dello scrittore André Gide, Marc Allegret gli chiede di fargli da aiuto regista, Vadim accetta senza pensarci due volte. Lineamenti decisi, sopracciglia disegnate, capelli corvini e occhi penetranti. Look trasandato di quelli che sembrano dire «so di essere bello ma non me ne curo», con questo aspetto si presenta alle ragazze che inevitabilmente cadono tutte ai piedi del fascinoso e tormentato. Le donne mi sono sempre piaciute moltissimo, mi innamoravo ogni giorno e sono stato fortunato perché anch'io piacevo molto. Non mi interessavano però le intellettuali che volevano fare le femministe a tutti i costi. Cercavo una ragazza spontanea, femminile, che si comportasse come sentiva di fare in quel momento. È il 1949 e nella stessa Parigi due figure femminili si affacciano sul mondo con due sguardi molto diversi. Mentre Simone de Beauvoir scrive Il secondo sesso, manifesto femminista portato avanti dallo slogan Donne non si nasce, si diventa, la quindicenne Brigitte Bardot appare sulle pagine della rivista di moda Elle, bellissima, ammiccante, offrendo un'idea molto più semplice di quello che è la libertà. Se la compagna di Sartre usa il cervello, è la pancia a guidare le azioni della Bardot. Ma questo non impedisce che Simone de Beauvoir rintracci in lei un'icona esistenzialista, tanto da dedicarle un saggio, una volta che esploderà il fenomeno BB. Brigitte mangia quando ha fame e in fatto d'amore si comporta con la stessa semplicità. Il desiderio e il piacere la convincono di più delle consuetudini e delle norme. Le foto di BB stampate su Elle sono adesso sul tavolo di Marc Allegret, il regista a cui Roger Vadim sta facendo da assistente nella speranza di imparare il mestiere. Appena Vadim le vede, ne rimane folgorato. D'altra parte, stanno cercando nuovi volti per il film in lavorazione e quella ragazza dai lunghi capelli biondi e la bocca carnosa e imbronciata sembra essere perfetta. Roger non abita da solo, non può permetterselo, squattrinato com'è. Si appoggia a una coppia di amici, Daniel Delorme e suo marito Daniel Jelen, entrambi attori. Lui, per intenderci, è il padre biologico di Maria Schneider, la protagonista di Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci, anche se non la riconoscerà, facendola soffrire di questo per tutta la sua disperata esistenza. I due hanno un figlio di 3 anni, Xavier, al quale Vadim, per ricambiare l'ospitalità, fa da babysitter. Quando entra in casa con la copia di Elle sotto braccio, il piccolo incomincia, mentre lui è distratto, a strapparne le pagine perché vuole fare degli aeroplanini. È il gioco che lo diverte di più. Ma questa volta Roger si affretta a recuperare la foto di Brigitte, rimanendo a guardarla incantato, completamente estraniato dal mondo. Brigitte emanava un fascino che nessun'altra donna mi aveva mai trasmesso, anche se era soltanto impressa sulla carta. Dovevo conoscerla. In fondo il film di Allegret era una scusa, perché mi interessava trovare un volto nuovo, è vero, ma soprattutto mi interessava lei, così bella, così pulita, con quell'aria da ragazzina leggera. Il primo incontro tra i due, nello studio di Allegret, davanti a una macchina da presa, è un disastro sul piano professionale, ma un colpo di fulmine emotivo. Vadim conferma e amplifica le sensazioni che lei gli aveva trasmesso da un giornale, mentre lei, impacciata e scontrosa, fa fatica a sciogliersi. All'inizio prova addirittura a tirarsi indietro. In fondo sa che i suoi genitori non sono per niente d'accordo che a soli 15 anni incominci a frequentare l'ambiente, a loro dire malsano, del cinema. E lei stessa non si sente pronta, è insicura, timida, non riesce a immaginarsi nei panni di una star. Ma mentre Vadim, deciso e convincente, riesce a farle piano piano recitare il copione, lei ha già in mente altro. Quando ho visto Roger per la prima volta mi ha tolto il respiro. Era bello come un dio, con quell'aria da esistenzialista di Saint-Germain, la vitalità dei giovani alternativi dell'epoca, scanzonato, prepotente, tutto il contrario a cui ero abituata. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1949 e due ragazzi si sono appena incontrati nello studio di un regista, Marc Allegret. Lui ha 21 anni, l'aria da bello e tormentato che vive tra gli artisti della Rive Gauche, e anche se per il momento fa l'aiutante, ha velleità da regista, mentre lei, quindicenne, insicura e bellissima, è appena apparsa come modella sulle pagine di Elle, la Bibbia della moda parigina. In poche parole, Roger Vadim sta facendo il primo provino a Brigitte Bardot. L'addizione di BB, così si fa chiamare, è sporca e imperfetta, e Allegret la definisce una pessima aspirante attrice, della quale certo non si può fare una star. Non la pensa allo stesso modo Vadim, che intravede dietro quello sguardo da cerbiatto e su quella bocca imbronciata molto più di una semplice ragazzina in cerca di una possibilità nel mondo. Quello che mi colpì di Brigitte era il suo stile. Aveva una maniera di muoversi e di esprimersi completamente in armonia con il suo corpo. Lo muoveva e si muoveva con una libertà e una naturalezza del tutto particolari. E poi il suo spirito, il suo temperamento. Era una fantastica ballerina classica con l'eleganza dei grandi danzatori. Nel suo genere era una rivoluzionaria. Aveva respinto i suoi vecchi valori e acquisito un approccio alla vita e ai problemi molto interessante. Percepiva le cose con uno spirito libero da pregiudizi e con grande intuito. Mostrava una spontaneità e una scioltezza che sarebbero divenute in seguito le sue migliori qualità professionali. Le ho promesso che avrei fatto di lei una star. Se dopo il disastroso provino Brigitte reagisce con forza al rifiuto di Allegret, è perché il suo carattere la porta a voler dimostrare sempre di essere all'altezza. La sua determinazione a farcela come attrice a questo punto diventa una questione di principio, non una reale voglia di recitare. D'altra parte lei non è per niente ambiziosa. Quando Jeanne Moreau dichiara di vivere per recitare, Bibi risponde tranquilla che lei invece recita per vivere. Di certo sente fin da subito che stavolta non è da sola, che di Roger si può fidare. E tra i due scoppia il grande amore. Gli incontri sono dapprima furtivi a casa di lei quando i genitori vanno in campagna. Già sono contrari alla carriera nel cinema, figuriamoci frequentare così piccola un futuro regista. Sua madre, negli impeti di follia che vanno sempre più peggiorando, tira fuori una pistola dal cassetto e la punta alla figlia, minacciandola di ucciderla se vedrà ancora Vadim. Ma lei non rinuncia al suo destino e va contro tutto e tutti. Sogna di sposarsi da quando l'ha visto per la prima volta e non appena è maggiorenne lo fa. I due si fanno ospitare insieme dai coniugi Jalène e proprio Daniel, l'attore maledetto, è il primo che le insegna la dizione e i fondamenti dell'arte drammatica, mentre Vadim la porta a tutti i provini sperando di convincere qualcuno a prenderla. Lo fa con così tanta passione, con una dedizione così profonda per la moglie, che quasi si dimentica la sua di carriera, quella di regista che deve ancora cominciare. Roger mi parlava sempre del set e di cinema, ma io non avevo assolutamente capito che un film si girasse scena per scena. Ero convinta che fosse la ripresa lineare della vicenda, senza interruzioni, senza dover ripetere mille volte la stessa cosa. Une histoire sans suite, sans suite. Ça fait crack, ça fait pchit, crack, je prends la fille, et puis pchit, je prends la fuite. Elles en pincent toutes pour ma pomme cuite, je suis un crack pour ces petites. Crack, les v'là sur le dos, et moi pchit, j'en profite. Leur petit cœur palpite, tandis qu'elle s'excite, qu'elle s'envoie au zénith. Grazie alla martellante campagna pubblicitaria di Vadim, qualche piccola parte arriva. Niente di che, ma almeno Bibi comincia a farsi le ossa, mostrando quel suo broncio che la farà diventare divina. Come tutte le starlette, partecipa al Festival di Cannes del 1953, ma più che per le sue performance sul grande schermo, viene accolta dai fischi di apprezzamento dei militari americani in visita ufficiale. Vadim la tiene con i piedi per terra, non è ancora una star, deve farne di strada per camminare a testa alta sul tappeto rosso come Lana Turner e Silvana Mangano. Con lei bisogna aver pazienza, capricciosa com'è. Eppure lui le insegna ad essere se stessa e a valorizzare i suoi difetti. Tenendo conto del fenomeno americano di Marilyn Monroe, vuole fare di lei una diva europea, con tutte quelle differenze di costume e di gusti che sono separate da un oceano. È il 1955 e Roger Vadim ha finalmente finito di scrivere la sceneggiatura di un film a cui sta lavorando da anni e con il quale vuole debuttare ufficialmente come regista. La trama è semplice. In un villaggio di pescatori, che poi è Saint-Tropez, la 18enne Juliette, appena uscita dall'orfanotrofio, getta scompiglio tra gli uomini. È una bomba sexy contesa tra il laborioso Michel, suo fratello Antoine, un po' meno posato, e l'anziano Coradin, direttore di un nightclub. Al di là della storia, però, è importante la sua atmosfera, con la quale Vadim riesce a sintetizzare un'epoca di grandi cambiamenti. Emancipazione della donna, liberazione del sesso, ribellione dei giovani a una società borghese ipocrita. Per interpretare tutto questo, la sua BB è naturalmente perfetta, al fianco di Jean-Louis Trintignant. E Dieu créa la femme, noto anche come piace a troppi, fa decisamente centro. Juliette Christiane Hardy, voulez-vous prendre pour légitime époux? J'ai peur. De quoi? C'est difficile d'être heureux. Embrasse-moi bien fort. Nous sommes de la même race tous les deux. Vous savez mentir? Pas moi. Grande scandalo, e come succede sempre, grande successo. Tre nuovi protagonisti vengono contemporaneamente lanciati sulla scena internazionale. Roger Vadim, che finalmente riesce a fare quello che sogna da una vita. Bibi, che ha la sua consacrazione come star. E Saint-Tropez, piccolo paese sconosciuto che diventa il richiamo del jet set internazionale. È il luogo del cuore di Bibi, dove comprerà una casa, la famosa Mandrag. E quando deciderà di ritirarsi per dedicarsi soltanto ai suoi animali e alle sue personali battaglie, lo farà proprio da qui. Roger Vadim e Brigitte Bardot si separano l'anno dopo, dando via entrambi a una serie infinita di amori più o meno importanti. Resta dal loro legame una svolta del destino. Se lui entra nell'Olimpo del cinema dietro la macchina da presa, lei incomincia a bucarla. Nasce un tipo di donna del tutto nuovo, la provocante e selvaggia gattina del sesso, come la chiamano i media. Possono esserci molte vite all'interno di una vita. La piccola Bri-Bri, la ragazzina insicura Brigitte, la bomba sexy BB. Ma alla fine si ritorna sempre al punto di partenza, a essere se stessi. E Vadim creò la donna. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.